Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di economia italiana, parliamo di imprese, parliamo di imprenditore. Ne parliamo con Mauro Magatti. Buonasera Magatti. Buonasera a voi. Mauro Magatti è docente di sociologia della globalizzazione presso la Facoltà di Scienze Politiche della Cattolica di Milano e ha curato il libro La nuova borghesia produttiva, un modello per il capitalismo italiano, un libro che raccoglie alcuni saggi e che si basa su una ricerca svolta negli scorsi mesi verso la nuova borghesia produttiva realizzata con il contributo della Fondazione del Credito Bergamasco e della Fondazione della Banca Popolare di Lodi e realizzata appunto dal Centro di Ricerche dell'Università Cattolica. Allora, innanzitutto, perché una ricerca sulla nuova borghesia produttiva? Mauro Magatti. La mia sensazione è che da molto tempo in questo paese manca un'idea di modernizzazione a cui certamente possono e devono contribuire diverse forze sociali. Una di queste forze sociali è da sempre, diciamo, il mondo imprenditoriale. Allora noi ci siamo domandati, conoscendo, avendo fatto molte ricerche qualitative, noi altri, in questo mondo di imprese che producono, vendono, investono, se per caso quelle imprese che conoscevamo, che sono imprese belle, Federico Butera le chiamerebbe imprese integrali, non costituiscono un gruppo di riferimento per questo paese e la sua economia, che può essere capace di avere un vero ruolo di leadership, senza il quale è difficile che l'Italia possa uscire dalle nebbie in cui si trova. Ecco, ma in questa prospettiva, appunto, un'analisi sulla realtà delle imprese, molto spesso si parla di imprese con una capacità di innovazione, con una capacità di internazionalizzazione che le imprese italiane hanno dato, hanno svolto negli ultimi anni. Dalla vostra ricerca emerge invece che queste realtà di imprese innovative, internazionalizzate, sono, non dico una minoranza, però non più di un quarto o un terzo della realtà delle imprese. Quindi la maggioranza delle imprese è un'impresa vecchio tipo, un imprenditore vecchio tipo sul fronte italiano. Ma intanto questo risultato non deve troppo sorprenderci, ma vorrei chiarire qual era l'obiettivo della ricerca. Come dicevamo prima e come diceva giustamente lei, sappiamo che ci sono imprese italiane medie, medio-piccole, che anche in questi anni si sono riorganizzate, hanno guadagnato quote di mercato, stanno facendo investimenti in termini di qualità e quant'altro. La ricerca aveva un obiettivo, cercare di stimare se si tratta di mosche bianche oppure se questo tipo di imprese costituisce un gruppo sufficientemente forte dentro il sistema imprenditoriale italiano da poter appunto diventare ed esprimere una leadership. I nostri risultati sono che il 22-23% del totale di queste 8.000 imprese, che sono il grosso del sistema manifatturiero italiano, condivide un modello che punta sulla qualità, su un rapporto costruttivo e positivo nei confronti dei dipendenti, su una relazione sensata nei confronti dell'ambiente e del territorio, e quindi condivide un modello, una certa idea di impresa, una certa idea di produzione, una certa idea di qualità. Poi, come in un gruppo ciclistico, il gruppo segue il granato, c'è un altro 20-25% che non corrisponde perfettamente a questo modello, ma ci tende, e poi si arriva a un altro gruppo, diciamo quello più staccato, che ha un atteggiamento, diciamo, un po' di meno sfruttamento, sfrutta il lavoro, sfrutta il territorio, sfrutta l'ambiente, non è in grado di investire sulla qualità. Allora, questa ricerca dice due cose: che questo gruppo 20% non è piccolo in realtà. Secondo, che se l'Italia vuole andare da qualche parte deve investire in questa direzione, e il nostro problema è far sì che nei prossimi anni questo 22-23% diventi rapidamente il 40, il 50, il 60, in un'alleanza nuova tra le imprese, i sindacati e lo Stato. Ecco, questo rapporto appunto con la società è un po' un filo conduttore anche di tutto il libro, in cui si dice a un certo punto è un paese il nostro in cui gli imprenditori non si sentono riconosciuti nel loro valore, nel loro apporto. C'è un po' una logica anti-imprenditoriale, una logica per cui l'impresa è un male necessario in un certo senso, è qualcosa di cui c'è bisogno ma che deve stare un po' a casa sua, ecco, la società è qualcosa d'altro. Questa logica in fondo dello scontro, dell'ostilità verso l'impresa è qualcosa che sta un po' tramontando oppure c'è ancora all'interno della società italiana? Ma sicuramente è un retaggio che sappiamo l'Italia si porta dietro da tanto tempo per varie ragioni. La ricerca, appunto, da qui anche il titolo, Una nuova borghesia produttiva, è prima di tutto un invito a questi imprenditori, a queste imprese. Senza, come dicevamo prima, una consapevolezza di quello che si sta facendo, senza riconoscersi simile ad altri, senza la forza di fare un discorso culturale oltre che un discorso economico, questo modello di impresa difficilmente potrà alla fine prosperare e difficilmente potrà aiutare il paese a tracciare una via appunto di modernizzazione nell'epoca che stiamo vivendo. La ricerca, devo dire, ha come primo obiettivo proprio il mondo delle imprese. Il nostro obiettivo è quello di dire: guardate che c'è un modello, questo modello lo stanno perseguendo in tanti, è un modello che può riconciliare appunto l'impresa con la società italiana, e allora forza, c'è uno spazio per fare un passo in avanti. Ecco, il passo in avanti può essere anche quello di facilitare il passaggio generazionale, cioè passare in imprese in cui chi comanda è ancora il fondatore, magari appunto il fondatore dell'impresa negli anni del miracolo economico, che adesso deve comunque passare il testimone. Questa difficoltà è stata più volte analizzata, è indubbiamente uno dei fattori che può frenare la modernizzazione e l'apertura a livello internazionale delle imprese. Mauro Magatti. Sì, questo è uno dei punti deboli delle imprese familiari, che sono poi la larga parte delle imprese italiane, ma per la verità sono anche la larga parte delle imprese in giro per il mondo. Certo. È sempre difficile per un imprenditore accettare l'idea che c'è un dopo di lui, ma l'esperienza ci insegna che se non si entra in questa prospettiva, alla fine è la stessa impresa che finisce. Per un imprenditore, diciamo, l'epica delle grandi cose che si sono fatte, delle grandi gesta che si sono compiute, finisce spesso per essere una trappola. Allora dobbiamo, come dire, certamente aiutare a fare questi passaggi, che poi è un problema per l'Italia in generale, dove il passaggio generazionale è sempre difficile, perché altrimenti tutto il buono che si è fatto alla fine rischia di essere buttato via. Ecco, in questa prospettiva appunto anche le imprese hanno il loro compito, il compito di dare un modello positivo all'interno della società, avere una consapevolezza, dice appunto nelle prime pagine del libro, una consapevolezza storica dell'esistenza di una nuova avanguardia produttiva. Forse dovrebbero fare qualcosa di più le imprese per essere testimoni di questa modernità e della positività del fatto di poter avere all'interno della società italiana un ruolo fondamentale. In questo senso il libro è anche un richiamo alla responsabilità degli imprenditori. Sì, certo, come dicevamo prima, gli imprenditori sono prima di tutto naturalmente misurati sul mercato, sulla loro capacità di essere competitivi, ci mancherebbe altro. Però loro stessi denunciano, poi nel questionario, nelle interviste che abbiamo fatto, una profonda solitudine, un senso anche di affaticamento, un senso anche di insoddisfazione per il mancato riconoscimento sociale per quello che fanno. E tutto questo naturalmente va un po' costruito. Ci sono stati dei momenti, pensiamo all'epoca in cui c'erano le grandi famiglie della prima industrializzazione italiana, che erano riuscite un po' a esprimere la cultura comune. Ecco, se non si costruisce questa cultura comune imprenditoriale, è come fare una battaglia di trincea, ciascuno ha il suo moschetto, certo. Sfida, come dire, tutti gli altri, qualcuno riesce a attraversare le linee, ma insomma molti sono i morti e dispersi. Questa idea, diciamo così, di una cultura comune, di un modello che si propone al paese, è segno, se mai ci sarà, di una classe imprenditoriale che diventa consapevole che il suo ruolo economico non è mai disgiunto da quello culturale e politico. Ecco, per concludere, Mauro Magatti, possiamo essere, non dico ottimisti, ma costruttivi in questa prospettiva. Ci sono le basi perché questa nuova borghesia produttiva possa sempre più essere innanzitutto cosciente della propria realtà, della propria capacità di azione, ma anche e soprattutto capace di condurre avanti questo paese fuori da una situazione di difficoltà e di crisi, in cui la maggiore difficoltà di crisi è proprio l'incapacità di avere fiducia nel futuro. Sarà capace questa borghesia produttiva di realizzare, di soprattutto testimoniare questa fiducia? Ma la ricerca dice che intanto i numeri ci sono, cioè c'è un gruppo significativo di imprese che sta facendo la stessa cosa, che persegue lo stesso modello e che condivide una certa filosofia. Quindi il presupposto c'è. Adesso si tratta naturalmente di provare a mettere insieme le forze e trovare il modo di esprimere questa unitarietà di intenti. È una cosa difficile, sì, però credo non impossibile. Speriamo. Grazie a Mauro Magatti di essere stato con noi, di aver parlato questa sera della realtà imprenditoriale italiana sulla base del libro La nuova borghesia produttiva, edito da Guerini e Associati. Sono 164 pagine per 16,50 euro. Grazie anche a Filippo Reggi in regia, a Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che Economia in Pagina, che l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.